38. Nonno William canticchia una canzone tra i denti. Seduta sulle sue ginocchia, Esther non capisce tutte le parole. Sono parole antiche, una filastrocca o una formula magica. Si trovano all'aperto, nel grande spiazzo davanti a Johnson Hall, e si respira aria di pace. È una giornata luminosa, forse estate. Nonno William indica il cielo, l'azzurro sopra di loro. «Cielo si dice Speyer», dice alla bambina. Poi tocca il bracciolo della sedia. Legno si dice Adamad. Aspetta che lei ripeta e sorride. La bambina gli sfiora le labbra con le piccole dita. L'elenco continua, ma Esther è già tornata al presente. Ha 15 anni, è in casa di Molly Brent. Il ricordo è riemerso all'improvviso. O forse no, forse è stato seguire i passi di Molly che l'ha aiutata a portarlo alla luce, dopo che per molto tempo era rimasto sepolto. Molly le ha parlato molte volte del sogno, il messaggio di nonno William ai vivi, la frase nella lingua della sua terra, parole portate via dal vento. Chi c'è nella bara? Ora le parole risuonano chiare. Esther corse fuori di casa. L'accampamento era immerso nella luce del primo pomeriggio. Faceva caldo, il ronzio degli insetti cullava il sonno di piccoli e anziani. Le donne lavavano i panni o abbrustolivano il mais. Molly parlava con due matrone, al centro di un capannello di persone. Philip posò l'ascia e osservò la catasta di legna tagliata. Per quanta ne stivassero nei magazzini, aveva l'impressione che non sarebbe mai stata sufficiente. Asciugò il sudore che gli ricopriva il petto e la faccia e solo allora si accorse della ragazza. «Ti ho portato qualcosa da mangiare?» Esther appoggiò il fagotto sul ceppo e lo aprì, rivelando un paio di pannocchie e una patata dolce. «Grazie». Lui infilò la camicia e sedettero su un tronco a sgranocchiare il mais. Godettero di quella tranquillità senza bisogno di dire nulla. Non c'era foschia. Sotto i bastioni del forte, dove il Niagara si gettava nel grande mare interno, l'acqua riusciva a riflettere il cielo limpido. «Ho sentito dire che la guerra non durerà più di un altro anno. Tu ci credi?» Philip scrollò le spalle. «Per questa gente non fa molta differenza. Il loro sguardo non va oltre l'inverno». Gli occhi di Esther si fecero tristi. Philip la guardò. Finirono di mangiare in silenzio. «Che farai dopo?» chiese ancora la ragazza. «Ci sarà un dopo?» disse Philip, senza aspettarsi una risposta. «Certo, l'inverno passa, torna la primavera. Tutto ricomincia». Esther rema a occhi chiusi. Al polso porta il bracciale d'adozione. La bara è sulla canoa. Insieme risaliamo la corrente. La ragazza bianca indica la via, non è così, William? Tua nipote è venuta da me dicendo di ricordare. Ha decifrato le tue parole, quelle che io non riuscivo a sentire. Nella bara c'è il cielo della Mohawk Valley e la cassa è fatta col legno della lunga casa. Dunque è questo che ci attende? Torna a trovarmi, William, per scacciare la rabbia e la paura che ho nel cuore. È ancora grande la prova che dobbiamo sostenere. Sorridimi nei sogni, perché siamo stati felici. Quando ci rincontreremo, ricorderemo ogni cosa. I nostri giorni, i respiri, gli amplessi. Ci sarà anche Peter. Troverà la strada per raggiungerti, prima che io venga da voi. È questo il tempo, William. Ora che il nostro mondo si consuma nel fuoco, ora che il ciclo si compie. La quercia diventa cenere, la cenere alimenta nuove radici. Ancora questo devo fare, salire sulla canoa, cercare il giardino.